dai parioli al tuscolano. Mambo coi bucatini, pizze calde e crostini. Ao, ao, embe, embe, cantano tutti trasteverini. Il Colosseo fa un invito all'arco di Tito. E d'Arzilli, malgrado i millenni, dalle fondamenta saltan su. Oh! Ballano sto mambo tu per tu. Oh! Vedendo questo un inglese abbraccia un cinese e scordando il proprio paese grida senza troppa austerità. Oh, bello! Vie qua! Mambo, mambo romano, grida Flavia Traiano. Ao, ao, e me, alle terme di Diocleziano. Mambo, mambo, questo è il mambo romano. Mambo, mambo, au, lasciatelo passare. Colosseo fa un invito all'arco di Tito e d'Arzilli, malgrado i millenni, dalle fondamenta saltan su. Oh! Ballano sto mambo tu per tu. Oh! Vedendo questo un inglese abbraccia un cinese e scordando il proprio paese grida senza troppa austerità. Oh! Bello, vieni qua! Mambo, mambo romano, grida Flavia Traiano. Ao, ao, embe, embe, alle terme di Diocleziano. Mambo, mambo, questo è il mambo romano. Mambo, mambo, ao, lasciatelo passare.